Allora, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Una nuova puntata di Entropia Massima, libera scienza in libero stato. Questa sera riprendiamo gli argomenti soliti, ovvero scienza e potere, filo conduttore di tutto il nostro anno di trasmissioni. L'avevamo già detto la scorsa settimana durante la trasmissione avevamo parlato di didattica a distanza in questa situazione appunto di emergenza, ma il concetto scienza e potere in questa situazione particolare decisamente va analizzato e da moltissimi spunti di ragionamento e di discussione. Quindi siamo qui con il nostro Lorenzo e il nostro comandante Jacopo e lascio immediatamente la parola a Lorenzo per la sua consueta introduzione. Care compagne e cari compagni e fratelli e sorelle all'ascolto, ormai siete tutti benedetti e perdonati dall'indulgenza urbi et orbi che venerdì sera, visto che registriamo sabato e domenica, vi ha colpito da Piazza San Pietro. Quindi ormai siamo tutti perdonati e indulti. Allora, l'ultima trasmissione di Libera Scienza in Libero Stato, di questo ciclo dedicato a scienza e potere, l'avevamo fatta lunedì 9 marzo in radio. Era l'ultima volta che siamo venuti in radio e questa qui, infatti, è registrata dalle nostre case di isolamento, isolamento sociale e distanziamento sociale. Il 9 marzo, quando abbiamo fatto la trasmissione, secondo i dati della Protezione Civile, che è bene ricordarlo sempre, e di questo anche un po' parleremo, sono dati che sono incompleti, per loro stessa ammissione, incompleti, parziali, disomogenei, con errori variabili, non stimabili e poi non filtrabili. E comunque all'epoca, il 9 marzo, in Italia c'erano 9.172 persone che erano state colpite dal virus. Di queste, 463 erano già decedute. Oggi, mentre registriamo, ieri sera, il totale dei positivi ha raggiunto il numero di 86.500 contagiati circa totali, di cui 9.134 sono deceduti. Un numero enorme, un incremento di un fattore 10, visto che sono passati soltanto neanche 20 giorni. Cioè, una catastrofe. Quella che sta succedendo, almeno dal mio punto di vista, è una catastrofe, soprattutto nelle province del nord, quelle che sono state più colpite fino ad oggi. In questo contesto, come avevamo già accennato la volta scorsa dalla radio, i rapporti tra scienza e potere, cioè tra le comunità scientifiche, pure utilizzare il plurale in questo caso, tra le comunità scientifiche e le comunità di decisori, quindi ampliamo pure il potere dove sta, le comunità che decidono, in questo caso sono da tenere molto sott'occhio e ci forniscono degli elementi di riflessione che poi dovremo analizzare in futuro, quando potremo a un certo punto arrivare a un certo tipo di storicizzazione di quello che è successo. Adesso ci stiamo in mezzo ed è più difficile capire. Un aiuto ci viene senza dubbio in assoluto dalla trasmissione che abbiamo sentito, chi non l'ha sentita lo dovrebbe fare, la trasmissione di Radio Onda Rossa, nella quale è stato intervistato il dottor Ernesto Burgio, sta sul sito della radio, basta cercare questo. La trasmissione è assolutamente da ascoltare, ovviamente senza pretendere di avere lo stesso livello, perché era molto approfondita la trasmissione e molto interessante. Comunque, un primo elemento di riflessione deducibile dall'intervista è che una parte della comunità scientifica, in particolare quella parte che da un sacco di decenni, da diversi decenni se non altro, osservava preoccupata l'evoluzione di questa tipologia di virus, i virus che sono in grado di fare il famoso salto di specie, se ne è parlato tanto, che li osservavano, li studiavano, li analizzavano anche in rapporto ai cambiamenti degli ecosistemi e delle possibilità di incrocio tra uomo e natura. E quello che temevano questa parte di comunità scientifica attenta a questo aspetto era una possibile mutazione di questi virus che avrebbe potuto renderli aggressivi, renderli tali da diffondersi nel modo in cui stiamo vedendo in questi giorni, con le conseguenze sul nostro sistema immunitario, su di noi, il nostro sistema immunitario sguarnito, totalmente impreparato. Un virus che, come tutti i virus, questo che temevano che si presentasse, conduce la sua vita in prestito, si replica nelle nostre cellule e fino ad arrivare a metterci in pericolo la possibilità di vita. Senza entrare nei dettagli che ci ha descritto il dottor Burgio, però lui ci ha detto che alcuni medici, scienziati, virologi, biologi molecolari, appena hanno ricevuto i primi dati epidemiologici e genetici e genomici della sequenza di questo virus dalla Cina, molti di loro hanno capito che quello che temevano da tempo era successo. A questo punto hanno cominciato a preoccuparsi, ovviamente, visto che era successo proprio quello che temevano, e a dirlo, a comunicarlo come potevano, a comunicarlo al resto della comunità scientifica. Però nello stesso tempo un altro settore della stessa comunità, quindi della comunità medico-scientifica, ha mandato un messaggio opposto. L'abbiamo sentito tutti quanti, è stato anche criticato, ridimensionando l'emergenza, facendo paragoni non praticabili con blandi virus influenzali, pare, criticando le prime misure, ritenendole assolutamente esagerate. Tanto per citare qualcuna di queste semplificazioni e di queste, diciamo, eccessivi prese in giro di quelle che erano considerate esagerazioni, mi ricordo della nave Civitavecchia, la critica al blocco dei voli dalla Cina, che è stato criticato da tutti per motivi opposti. Molti hanno detto: vabbè, insomma, è solo un'influenza, state tranquilli, siamo tranquilli. Tra i due messaggi, che entrambi provenivano dalla stessa comunità scientifica, apparentemente dall'esterno, inizialmente apparentemente è prevalso quello più rassicurante, e la comunità dei decisori si è attestata su questa che potremmo definire da oggi una rassicurazione disastrosa. Così stavamo a fine febbraio. A fine febbraio, che abbiamo visto? Abbiamo visto la Milano da bere a tutti i costi, i famosi aperitivi del 27 febbraio, era giovedì 27 febbraio, organizzati dal PD milanese, durante uno dei quali si è probabilmente contagiato anche Zingaretti. Sempre il 27 febbraio, al 27 febbraio risale il video di Salvini, quello all'aeroporto, in cui dice: apriamo tutto, l'Italia è bella, così. Il 28 febbraio, venerdì, parte una campagna nella zona di Bergamo, dove già c'erano stati dei casi, che si chiama Bergamo is running, Bergamo non si ferma. E anche i giorni successivi non si sono fermate le partite, non sono state sospese le attività che non si possono chiudere, i pub erano pieni e così via. Quella a vederla oggi sembra stata una rassicurazione disastrosa, il tentativo di fermare un'epidemia a parole, a chiacchiere e a rassicurazioni. Molti hanno detto: non ci faremo chiudere nelle nostre case, la nostra voglia di vivere non si può fermare, non si può rinchiudere la nostra creatività, aprire tutto. Fino io ho letto anche assurdità lette proprio dalle nostre parti politiche, diciamo, assurdità senza senso di qualcuno che scriveva: il virus è un fenomeno fortemente politico. D'altra parte, lo hanno detto anche i medici, l'hanno detto degli scienziati, alcuni anche molto in evidenza. Chissà, questa è una cosa su cui riflettere. In passato già abbiamo incontrato questa locuzione, rassicurazione disastrosa. Era il rassicurazionismo della Commissione Grandi Rischi all'Aquila, quando la scienza si era piegata al volere del potere, che era in quell'epoca infastidito dal terremoto. Stavolta è diverso, senza dubbio. Sarà necessario del tempo, ci penseremo dopo, per capire che cosa ha spinto una parte della comunità scientifica a sottovalutare l'allarme di altri colleghi competenti. Forse non l'hanno letto. Qual è stato? Perché hanno sottovalutato la reazione forte del governo cinese e comunque l'educazione del governo cinese a far fronte all'epidemia? Perché non hanno guardato quei dati che sembravano ad alcuni così chiaramente evidenti dell'arrivo di un virus pericoloso? Cosa li ha spinti a rassicurarci, arrivando a dire: non vi preoccupate, tanto muoiono solo le persone deboli, muoiono solo le persone fragili e già malate? Per quale motivo il rassicurazionismo è arrivato in quei giorni e qualcuno l'ha denunciato, qualcuno fragile? E a me mi ha molto colpito questa cosa di leggere. Perché l'assicurazione è arrivata fino a rassicurare la società dei forti, quella del capitale, il capitalismo dei forti, dei prestanti, di quelli che non hanno problemi, dicendo che tanto muoiono soltanto i deboli. Proprio, tra l'altro, chi diceva questa cosa è proprio chi la dovrebbe curare, la popolazione fragile, chi sarebbe preposto a curare quella parte di popolazione. Che cosa li ha spinti a comportarsi da esperti, cioè i mediatori del potere del sapere scientifico presso i decisori della popolazione, esperti che però ignorano allarmi e diffondono notizie rassicuranti non basate su niente, ma solo sul fatto che non era grave, che i sintomi medi, la maggior parte dei sintomi sono quelli di un'influenza? L'OMS ha aspettato un sacco a dichiarare la pandemia, pure questa era una delle domande che si faceva al dottor Burgio. Che meccanismi hanno agito? Lo dovremo scoprire. Che potere in questo caso qui ha agito in questa parte di comunità scientifica? C'era qualche forma di potere? La ribalta, la necessità di dire qualcosa a tutti i costi, di essere veggenti? Così, è mancato qualcosa? Non so, non c'è risposta, però è un elemento da analizzare meglio. E anche un elemento da analizzare meglio è come possiamo tutti noi, comunità di ascolto di questa parte di comunità scientifica, nei prossimi casi, ancora una volta, capire come coltivare il dubbio per intercettare fenomeni, se non altro il dubbio, per intercettare questi fenomeni che possono danneggiarci, e invece esercitare il nostro senso sono critico rispetto a queste cose. Successivamente a questo, il giorno dopo la nostra trasmissione del 9 marzo, c'è stata la chiusura. Il nostro isolamento è cominciato allora, speriamo che possa proteggersi e ridurre un pochino la diffusione del contagio. Il nord ormai sembra precipitato, almeno a me, in una realtà terribile in cui c'è dolore, solitudine, paura e morte. Mi sembra che prevale quello, leggendo soprattutto le cronache dalle province di Bergamo e dalle cose, dove le ambulanze suonano ogni 5 secondi e dove non suonano più nemmeno le campane a morto. Una cosa che ci racconteremo e sarà terribile, i pochi racconti che arrivano. D'altra parte, la comunità scientifica, una parte, si è rimessa al lavoro, ovviamente, sta facendo un enorme sforzo, grande parte di ricerca adesso sta investendo finalmente, dei soldi saranno stati messi sulla ricerca scientifica per contrastare il virus. Il personale medico fatica ed è sottodimensionato, stanco, distrutto, poco equipaggiato ad affrontare tutte queste emergenze. Comunque ci sono anche altri elementi di curiosità di cui possiamo parlare. Il primo è perché mancava un piano di emergenza nazionale che prendesse in considerazione la possibilità anche vaga di una diffusione epidemica in Italia. Se la comunità scientifica internazionale aveva dimostrato l'esistenza di questo rischio negli ultimi decenni ed erano inoltre state condotte da alcuni paesi delle esercitazioni in tal senso, tanto da avere la popolazione preparata, e comunque non troppo tempo fa noi avevamo rischiato una diffusione pandemica di Ebola, si era parlato, dall'Africa occidentale, perché nei piani di emergenza non era manco considerato? Ma non è che doveva essere considerato ipotizzando grandi scenari. Per esempio, si potevano tenere una scorta di presidi medici d'emergenza, tipo i famosi le mascherine, insomma, i dispositivi di protezione e qualche scorta di ventilatori, di materiale per la rianimazione. Borrelli gli è pure scappato a una conferenza stampa e ha paragonato l'assenza della scorta di dispositivi medici d'emergenza all'assenza di casette provvisorie di soluzioni emergenziali abitative post-sisma, quindi dicendoci che alla protezione civile non c'è né una scorta di presidi medici d'emergenza né una scorta di casette post-sisma. Speriamo che non accadano insieme, però all'interno della protezione civile ci sono dei medici assunti, degli esperti di medicina. Lo stesso Bertolaso era un esperto di medicina d'emergenza fino a che non si è ammalato. Il secondo elemento è che in tutto questo stanno emergendo nuovi esperti, poi ne parliamo. C'è un gran lavorio su questi dati, un sacco di gente che sta a casa, un gran lavorio su questi dati che producono grafici, producono previsioni, producono chiaroveggenze in un modo abbastanza spasmodico. Alcuni addirittura si pubblicizzano in rete come risolutori, una specie di conteggio strano in cui dimostrano che hanno dimostrato il giorno prima che il giorno dopo li sarebbero stati tot morti. Insomma, sono tanti elementi da tenere in considerazione e magari fra poco ne parliamo col comandante Jacopo che ci racconta un po' il metodo scientifico o come si approccia ai dati per analizzarli senza troppe confusioni. E allora grazie a Lorenzo per l'introduzione e un piccolo stacco musicale per tornare tra pochissimo in voce in differita. Walking out to, I wanna step in next to you. Eccoci di nuovo in voce, Onda Rossa, Libera Scienza in Libero Stato. Iniziamo la seconda parte. Dopo questo breve stacco musicale, passo subito la parola al comandante Jacopo. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie Lorenzo per sempre per la tua splendida introduzione, che dà sempre molte domande a cui è veramente difficile rispondere in questo momento, soprattutto in questa fase proprio di emergenza totale in cui ovviamente penso che le riflessioni andranno fatte rigorosamente, poi speriamo il più presto possibile a bocce ferme, insomma. Ecco, però ecco, mi riallaccio proprio all'ultima cosa che dicevi riguardo al fatto che di statistiche, di analisi dati, veniamo bombardati in questo periodo continuamente di grafici, anche spesso di incomprensibile, proprio impossibile decifrarli, ecco, perché comunque si manca di competenze. L'altro giorno parlavo con un'amica mia e che mi diceva appunto: io mi sono stufata, non voglio vedere neanche più un grafico, quando tramite WhatsApp mandavo certi grafici. Io gli dicevo: sì, hai ragione, effettivamente, ma i grafici comunque sia sono i dati sono fondamentali, sono imprescindibili, però vanno presi cum grano salis. E appunto parliamo oggi, proprio cerchiamo di dare un contributo da questo punto di vista, non fornendo altri dati, assolutamente. Io personalmente non voglio entrare assolutamente in merito alle questioni di virologia, di medicina, perché non è il mio argomento, però rispetto a come procedere, anzi soprattutto per dire a chi fa troppi grafici di non farli se non sono addetti ai lavori, e di riflettere un attimo e fermarsi un attimo a rivedere ciò che cos'è il metodo sperimentale, soprattutto non andare fuori dal proprio seminato se non si è specialisti, perché l'unica conseguenza è di generare più confusione di quella che c'è. E infatti voglio partire da un sito che poi mi avevi suggerito tu, Lorenzo, un po' di tempo fa, parlando un paio di giorni fa. È un sito che si chiama tylervigen.com ed è un sito un po' astruso, però molto, secondo me, è per ridere, anche molto divertente, però è anche molto pregno di significato. Cioè è un sito in cui l'autore si diverte a trovare delle spurious correlations, cioè se uno apre questo sito vede delle correlazioni strane, assolutamente insensate e improbabili. Per esempio due che mi sono divertito, ma più che altro perché risultano correlate al 99.7.20%. La prima per esempio è la frequenza, lui ha trovato, ha fatto questo studio prendendo dei dati, la frequenza di divorzi nello stato del Maine negli Stati Uniti con il consumo pro capite di margarina. Allora c'erano due curve che praticamente avevano lo stesso andamento e quindi una correlazione fortissima. Allora uno può dire da questo punto di vista che la frequenza dei divorzi dipende dal consumo di margarina, certo che no, però c'è una correlazione da un punto di vista statistico. Come c'è una correlazione molto forte, anche questo, gli investimenti del governo americano nella ricerca scientifica, spaziale e tecnologica è correlata al 99.7% con i suicidi per impiccagione, strangolamenti e soffocamenti negli Stati Uniti. Ovviamente, insomma, non serve neanche dirlo, ma insomma, è assolutamente insensata questo tipo di correlazione. Ecco perché uno deve stare attento, non può fare subito, nella situazione in cui che stiamo vivendo adesso, prendere dei dati che sono ovviamente giustamente liberi in accesso per chiunque, però non può, se non sei addetti ai lavori, fare delle correlazioni, io penso. Perché? Perché possono essere fuorvianti, possono portare a conseguenze assolutamente inverosimili, e quindi è meglio non farle se non sono addetti ai lavori. Ovviamente i dati servono, i dati, sono oggettivi, sono numeri. Cosa ci si deve fare con i dati? Prima di tutto bisogna avere un obiettivo pertinente, e soprattutto, lo ripeto, questi dati devono essere usati da chi ha delle competenze per usarli. In questo caso i medici, gli infettivologi, i virologi, eccetera. C'è un'altra differenza anche da questo punto di vista. Parlando, ieri è emerso pure questo aspetto che secondo me è importante. Oggi ci troviamo di fronte a consultare, per esempio nella fattispecie la protezione civile e il governo, a consultare questi dati per cercare di porre rimedio e quindi quello che ha portato porre rimedio alla pandemia, quindi, quindi quello che ha portato al lockdown dello Stato italiano e di tutti gli altri stati nel mondo. Ora, questi, quindi i dati in questo caso vengono usati per un obiettivo, che è l'obiettivo di arginare l'epidemia, ma gli stessi dati in maniera diversa possono essere utilizzati se, per esempio, i virologi come Burioni, Burgio, eccetera, eccetera, ne discutono in titolo, in ambito accademico, per cercare appunto di sviluppare il vaccino per il coronavirus e nuovi farmaci. Ora, lo stesso dato, però sviluppato in maniera diversa. Voglio fare degli esempi, io non, appunto, come ho detto, non sono né un virologo né un medico, io sono un fisico e quindi traggo degli esempi per far capire meglio a voi tutti cosa vuol dire perseguire un metodo scientifico e soprattutto essere padroni della materia nel momento in cui si analizzano i dati. Io, un po' per indole, un po' per amore, insomma, parto sempre da Einstein, perché dalla vita di Einstein, perché è stato uno dei capisaldi di tutta la scienza, di tutto, diciamo, di tutta l'umanità, uno dei punti più dei personaggi più importanti. E infatti faccio questo esempio: Einstein sviluppa la relatività generale nel 1915. Senza andare in dettaglio, però ecco, la relatività generale pone proprio una pietra miliare, perché sorpassa la teoria della gravitazione di Newton e dice che lo spazio e il tempo hanno una geometria, e questa geometria, questa trama tra spazio e tempo si incurva e sensibile all'interazione della materia, la materia dei corpi celesti, il sole, i pianeti, la galassia, cioè, che a sua volta la massa, la materia di cui è composta appunto, per esempio, la galassia, è sensibile allo spazio-tempo, cioè si muoverà seguendo le traiettorie delle curve di questo spazio-tempo. Bene, Einstein fece questa grande teoria, una teoria che sorpassava, però rimase una teoria fino, e infatti Einstein diventa famosissimo nel 1919, precisamente la svolta è il 29 maggio, quando per la prima volta un grande astronomo inglese, Sir Arthur Eddington, sfrutta un'eclissi totale che si trova doveva avvenire all'isola di Principe, praticamente di fronte alle coste dell'Africa, all'equatore. Lui organizzò una spedizione e andò a misurare una delle conseguenze dirette delle predizioni di questa grande teoria di Einstein, cioè che la flessione dei raggi luminosi di una stella in presenza del forte campo gravitazionale del Sole si sarebbero incurvati, avrebbero deviato. Quindi attraverso questi studi avrebbero provato la validità di questa teoria. Ebbene, Eddington stava lì, montò i suoi telescopi, i suoi marchingegni, sapeva quale dato cercare, sapeva cosa doveva trovare tra i tanti, perché quando uno punta un telescopio al cielo può misurare qualsiasi cosa, oggi poi più che mai, quindi dalla radioastronomia alle onde gravitazionali ai raggi gamma. Beh, Eddington sapeva cosa doveva misurare, e non altro. Quello era padrone della materia, era padrone della sua materia. Quei dati fornirono la spiegazione, cioè la prova, che una delle tante prove che poi nella storia si sono succedute, che hanno dato sempre conferma di questa teoria, hanno validato questa teoria, e quindi viene confermato. C'è un aneddoto simpatico in cui Einstein, appunto, il 29 maggio riceve questo telegramma da parte appunto di questa equipe inglese che si trovava giù all'isola di Principe. Eddington gli dice: abbiamo provato i tuoi calcoli, questi calcoli, questi esperimenti, questi dati matchano benissimo con le tue previsioni teoriche. Glielo consegnò questo telegramma una sua studentessa dottoranda, e però gli chiese la studentessa: professore, ma lei, Einstein fu subito soddisfatto, ma neanche più di tanto. Allora la ragazza gli chiese: ma lei non è emozionato? E se non l'avesse mai confermato, allora Einstein disse questo: mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio, perché la teoria è corretta. Ora, questo è un aneddoto, però per dire, non è che la teoria di Einstein è corretta per sé, sarà corretta per sempre, però era così padrone della materia che effettivamente prima di poter dire che Einstein non aveva ragione, insomma, ci serviva un bel po'. E tanto è vero che ci hanno provato nell'arco della storia, tantissimo a confutare la rete, ancora non ci si riesce. Al massimo ad aggiustarla, a modificarla, ma comunque rimane valido. Un altro bel esperimento fu l'esperimento di Rutherford, questo per far capire come procede un po' la scienza e il metodo scientifico. Lì si parla, Einstein, abbiamo detto che si parte dalla teoria, Einstein compie questa bella teoria, deve essere provata, i dati sperimentali la provano. Di contro, Rutherford, il modello atomico. Cosa fa Rutherford? All'epoca Rutherford aveva scoperto l'esistenza nel 1899 delle particelle alfa. Erano particelle alfa, non sono altro che nuclei di elio. Però all'epoca si chiamavano alfa perché non si sapeva l'origine vera e propria. Però si sapeva che si sapeva produrre perché si vedeva dal decadimento dell'uranio, che l'uranio decadendo radioattivamente produceva queste particelle alfa. Rutherford mise su un esperimento con due suoi grandi collaboratori nell'Università di Manchester nel 1909, perché gli serviva, sparava queste particelle alfa contro una lamina di metallo. Questo esperimento serviva per validare, per provare la validità del modello atomico di Thomson, cioè il famoso modello a panettone. All'epoca, prima di come noi adesso consideriamo il modello atomico, che diciamo sempre che è un sistema planetario in cui c'è un nucleo solido ben compatto al centro e gli elettroni che li orbitano a una distanza, come se fossero pianeti di sistema solare, a una distanza molto elevata dal nucleo, all'epoca Thomson fece uno dei primi modelli atomici e diceva che era a forma di panettone. Voi immaginate quel panettone di Natale in cui i canditi sono gli elettroni e la carica invece positiva, che doveva rappresentare il nucleo, avvolgeva appunto questi canditi. Allora, sparando queste particelle alfa, i collaboratori di Rutherford videro che i risultati che venivano prodotti non potevano essere giustificati all'interno di questo modello. Tant'è vero che se era un modello soffice come il panettone, queste particelle alfa molto veloci avrebbero attraversato, sfondato questo panettone per intenderci, quindi non avrebbero deviato, le loro traiettorie si sarebbero viste belle dritte dal punto, dalla sorgente fino a dove dietro venivano viste. Invece queste particelle alfa scateravano, cioè deviavano in ogni direzione, ma non solo in ogni direzione, ma anche dietro, tornavano indietro, parte, però in una minima parte. Ciò servì a dire che c'era un nucleo pesante, in cui quando queste particelle colpivano questo nucleo pesante venivano proprio deviate come delle bocce di biliardo, e se colpivano proprio centralmente venivano, addirittura rimbalzavano. Siccome quelle che rimbalzavano indietro erano poche, trassero pure una conclusione dicendo lo spazio tra gli elettroni e il nucleo è molto vasto, è molto vasto. E quindi questo portò le basi, gettò le basi per il nuovo modello atomico, che fu quello di Rutherford, che a sua volta gettò le basi a sua volta per il modello atomico di Bohr, quello che poi è quello da cui partì lo sviluppo della meccanica quantistica. Ora, più di questo non mi dilungo, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche lì, se non era Rutherford a fare l'esperimento, se non erano i collaboratori di Rutherford a interpretare Rutherford i dati di questo esperimento, non potevano avallare oppure dire che non era giusto questo modello. Un modello che veniva a priori. Ora, tutto questo appunto è il metodo scientifico, che può essere, che si può differenziare. Ecco, il metodo scientifico, adesso lo spiego in maniera semplice, come si spiega ai ragazzi quando si va al liceo, poi userò delle parole di Galileo che sono secondo me molto consone per riassumere ciò che ho detto. Che cos'è il metodo scientifico? Come si può riassumere? Perché si chiama di Galileo? Perché è Galileo che pose le basi della metodologia sperimentale con cui si basa tutta la scienza moderna nel 1600. Si possono dividere in sei punti, praticamente. Quindi il primo punto è osservare un fenomeno e porsi delle domande. Il secondo punto è formulare un'ipotesi o teoria, in questo caso appunto la relatività di Einstein, oppure l'atomo di Thomson o l'atomo di Rutherford. Cioè una possibile spiegazione del fenomeno. Compiere un esperimento per vedere se l'ipotesi è corretta, analizzare i risultati, ripetere l'esperimento anche in modi diversi per vedere se, sulla base del modello che tu hai, questo modello prevede questo tipo di modi diversi di compiere l'esperimento. E poi giungere ad una conclusione e formulare una regola, in questo caso una regola che può essere un modello o una legge della fisica, ma in generale di qualsiasi cosa. Questo metodo può procedere, ecco, ovviamente le discipline della scienza ormai sono tante. Rispettare proprio questo modello non è proprio chi lo rispetta proprio pedissequamente, per esempio, possiamo dire con certezza che è la fisica, perché per sua natura riesce comunque in maniera facile a, a, a, a soddisfare tutti questi punti. Ci sono altre discipline scientifiche che quindi che possono procedere per deduzione e induzione, cioè per metodo deduttivo o per metodo induttivo. Ora, per dei limiti di certe materie, per esempio la geologia non può ripetere un esperimento per certi casi, cioè uno va a vedere quello che è successo milioni, miliardi di anni fa sulla Terra, capite bene che insomma riprodurre ciò che era è assolutamente impossibile, oppure la medicina, in cui la casistica delle malattie, di ciò, della complessità che madre natura crea, la complessità delle variabili, ovviamente non può far sì che un esperimento sia ripetibile. Non ti puoi mettere nella situazione che tutto ciò è più semplice, come in un esperimento di laboratorio, padroneggiarlo, e quindi anche lì usi il metodo induttivo, deduttivo, a seconda delle situazioni, in maniera anche abbastanza molto empirica, e quindi anche la fallibilità della medicina. Galileo dice questo: il metodo scientifico è la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e comunque condivisibile. Esso consiste, da una parte, nella raccolta di dati empirici, sotto la guida delle ipotesi e delle teorie da vagliare, dall'altra nell'analisi rigorosa, logica e razionale, e dove possibile matematica di questi dati, associando, cioè come enunciato per la prima volta da Galileo, le sensate esperienze alle dimostrazioni necessarie, ossia la sperimentazione alla matematica. Questo, quindi le sensate esperienze e le dimostrazioni necessarie. Questo, diciamo in soldoni, in maniera en passant, è quello che il metodo scientifico richiede. Quindi, detto ciò, a maggior ragione, chi non ha una padronanza della materia in questo senso, è meglio che non lo faccia, perché appunto, come dicevo all'inizio, può portare a conclusioni errate e generare, soprattutto in questa situazione, fase e periodo storico, del panico inutile. Chiudo con una barzelletta. Anzi no, facciamo così. Adesso mandiamo uno stacco musicale e poi vi dico una barzelletta che secondo me è una barzelletta, come si dice, che girava da 20 anni negli ambienti nel mio dipartimento, all'università. Una barzelletta un po' da nerd, però diciamo racchiude un po' quello che ho detto. Can't keep my eyes from the circling skies. E allora di nuovo in voce, terza parte di Libera Scienza e Libero Stato, Onda Rossa, ondarossa.info. Ripasso la parola al comandante Jacopo che ci aveva lasciato in sospeso con la sua barzelletta. Eccoci qua, grazie, grazie Chiara. Allora sì, la barzelletta, ma che senso c'ha questa barzelletta? È una barzelletta appunto che si riallaccia al discorso di prima, dicendo appunto che insomma in certo senso scherzosamente riassume quello che stavamo dicendo, cioè che uno stesso set di dati può essere interpretato diversamente nelle varie discipline, in diverse discipline. Allora questa barzelletta semplicemente dice, c'è un treno che sta andando lungo i prati verdi della Scozia, dentro questo treno in uno scompartimento si trovano casualmente un astronomo, un fisico e un matematico che viaggiano insieme. A un certo punto dal finestrino scorgono un gregge di pecore. In mezzo a questo gregge di pecore si vede una pecora nera. Allora l'astronomo dice, in Scozia ci sono le pecore nere. E il fisico fa, perché ci sono? Ne vista una, in Scozia c'è una pecora nera. Secondo il matematico, un po' più taciturno alla fine, si decide a parlare e dice, non è proprio così, perché in Scozia c'è almeno un campo che contiene una pecora colorata di nero, almeno da una parte. E quindi, questa è la barzelletta che riassume un po' il modo di vedere nelle discipline, tra la medicina, per esempio, la fisica, la geologia, il modo di procedere è diverso. Cioè, non è che sono sbagliati, sono diversi modi di procedere, che sono, ognuno ha i suoi limiti e le sue caratteristiche. E questa è la conoscenza umana, il modo di procedere dell'uomo attraverso l'ignoto della natura. Ecco. Però in effetti, caro comandante Jacopo, la barzelletta apre a tre diversi approcci, che però sono tutte figlie dello stesso approccio, come dicevi tu, nel senso che effettivamente, stavo pensando mentre sentivo la barzelletta, effettivamente quello che dice l'astronomo, il matematico, che no, l'astronomo generalizza, dice io ho visto una pecora in Scozia e quindi in Scozia ci sta una pecora nera in Scozia e quindi in Scozia ci stanno le pecore nere. Però di fatto il matematico che invece puntualizza che quella pecora potrebbe essere una sola e colorata di nero soltanto da una parte in un campo che forse sta in Scozia. E, quella pecora lì però la curiosità è che il matematico non può confutare quello che dice l'astronomo, perché non ha verificato che è l'unica sola pecora nera. Quindi questo qua ritorna rispetto a quello che dicevamo, che dicevi prima, rispetto ai vari approcci della scienza. Non so, diversi approcci, quindi effettivamente loro con i loro tre diversi approcci dicono cose diverse, però tutte e tre le affermazioni sono corrette da un certo punto di vista, perché non è confutabile. Quindi se l'astrofisico, deduce dall'osservazione una teoria generale, questa fino a che non è confutata è valida. Quindi se vedono una seconda pecora nera, no, dopo quella prima, si ritroveranno con due pecore nere, due mezze pecore nere o due sole pecore nere, tutta la cosa. Però c'ha sempre più ragione l'astronomo. Quindi in questo senso qui, i vari approcci delle varie discipline, in un certo senso, sono diversi punti di vista della stessa realtà, quindi alla fine possono convergere. Che ne dite? Li abbiamo messi d'accordo l'astronomo, il com'era l'astronomo, il fisico e il matematico. Il matematico, certo, diciamo che è un modo anche, è una forma mentis di procedere, cioè l'intenzione di generalizzare subito. Il fatto di non generalizzare è la rigorosità nel pensiero matematico, che è assolutamente molto più rigoroso, per cui quando un matematico fa un teorema, il teorema deve essere dimostrato, cioè diventa teorema. Quindi dimostrato significa che nell'ambito, all'interno proprio dei meccanismi del pensiero umano, quello è valido sempre, sempre, in ogni luogo, in ogni tempo. Ora, questa è un po' la differenza. Ritornando un po' anche al discorso dell'emergenza che c'è adesso, ecco, questo serve un po', quello che voglio dire è che serve che bisogna andarci veramente cauti nell'analizzare e trarre conclusioni su dati empirici. La cosa bella sarebbe questa, cioè secondo me questo tipo di crisi ha messo in luce anche un fatto. la necessità di avere, la necessità di aggregare competenze, ma competenze sull'argomento necessarie contemporaneamente. Cioè questo significa anche un po', cioè significa che la capacità del virologo deve essere interconnessa e deve saper lavorare con la capacità dell'infettivologo, così come se serve di un ingegnere, così come se serve anche di uno psicologo, perché abbiamo visto che gli psicologi servono, quindi anche di chi si occupa di sicurezza e di protezione civile. Questo mette in luce un po' un passaggio epocale rispetto anche a quello che era, come dice Baricco, sto riprendendo un po' anche un po' il pensiero di Baricco, da un articolo che uscito ultimamente su Repubblica, lo consiglio, che si chiama, ve lo dico subito il titolo di questo che mi ha colpito, fa diverse analisi su questa crisi, però ecco, e dice anche che gli intellettuali devono dare anche delle certezze, ecco, in questo caso. Questo è il momento dell'audacia, si chiama questo articolo, in cui appunto lui presuppone, fa proprio uno spartiacque tra la concezione dell'esperto, della razionalità novecentesca, e quello che invece è quello del nuovo millennio, cioè la capacità digitale di cercare di dare risposte anche veloci, in maniera globale, attraverso il coinvolgimento di tantissime personalità, tantissime competenze, più personalità, ecco, competenze diverse, fino a quando tutte quelle che servono. E lui dice anche che questa, in maniera anche molto fiduciosa, lancia un messaggio ottimistico che io condivido, che dice che in questo caso, in questo senso, il caso del Covid-19 ha tutta l'aria di essere la grande prova generale per il prossimo livello di gioco. Lui lo identifica come un gioco a diversi livelli sempre più difficili, no? La cui missione finale sarà salvare il pianeta. Emergenza totale, cronica, lunghissima, in cui tutto dovrà tornare a funzionare, perché non scordiamocelo, no? Che non è che adesso il coronavirus, cioè l'emergenza del coronavirus e tutti gli altri problemi che fino a poco fa, anche nelle nostre trasmissioni abbiamo trattato, come l'emergenza climatica, scompaiono. Questa, secondo me, è un'opportunità, è una grande opportunità che ci fa capire anche che insieme, cioè nell'emergenza, il genere umano è un'opportunità in cui il genere può dimostrare effettivamente di saper collaborare, di credere all'intelligenza delle persone e soprattutto di far fronte ai vari problemi che sono via via sempre più difficili. Con il coronavirus in questo momento è un problema difficilissimo, speriamo che si risolverà presto nel miglior modo possibile, ma il genere umano avrà delle sfide che fino a questo momento abbiamo accantonato, ne abbiamo parlato in maniera molto scommessa, anche se ha avuto una risonanza mondiale l'emergenza climatica, ha avuto quello che si sta facendo, ma comunque sembra assolutamente poco. Questo implicherà anche, secondo me, per forza dovrà passare attraverso anche una rottura, una torsione forte della società, in cui ci sarà, farà male questa torsione, ma assolutamente necessario, un terremoto che dovrà scuotere proprio la società e il genere umano, se vogliamo continuare ad andare avanti. Speriamo che si scuota in senso positivo. Io sono sempre preoccupato quando, torniamo poi al metodo scientifico, però sono abbastanza preoccupato di questa scossa potenziale, perché non sono mai fiducioso. Molta gente ha detto, beh, questa è l'evidenza, no? Visto che è molto correlata questa diffusione o questa capacità dei virus di saltare di specie, è molto correlata al cambiamento climatico, alla distruzione degli ecosistemi, molti vedono come si è associata a questa tragedia, a questa epidemia, ci sia la possibilità finalmente di presa di coscienza da parte della specie umana dei suoi limiti. Allo stesso tempo molti vedono la possibilità che finalmente noi vediamo lo sfascio della sanità in tutta la sua italiana, no? E mondiale in generale, ma comunque italiana in particolare, in tutta la sua sotto la luce, no? Quindi riusciamo a capire che le politiche della sanità degli ultimi anni in Italia hanno portato a una condizione di... Io non lo so, speriamo, ma io non credo che una cosa negativa come questa possa poi rilanciare, pure se mette in evidenza la crisi, non è detto che possa rilanciare il contrasto alla crisi. Speriamo, però, speriamo che la gente si accorga che la sanità pubblica è stata devastata e che finalmente, dopo che alle manifestazioni ci andavamo poche centinaia di persone, queste poche centinaia diventano centinaia di migliaia. Speriamo, perché l'unica cosa da fare è la lotta, no? Come al solito, come contro i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici distruggono gli ecosistemi e conducono, come è uscito, sono usciti parecchi articoli, cito quello uscito su Dynamo Press, molto interessante, sul fatto che la perdita di ecosistemi naturali rende la possibilità di questi di contatto tra cose che non dovrebbero venire a contatto più facile, e quindi la possibilità, moltiplica la possibilità che virus mutati, cioè la possibilità che succeda quello che sta succedendo. Sarà una presa di coscienza maggiore? In ogni caso, se la presa di coscienza sarà forte da parte della popolazione, dovremo lottare contro, saremo tanti in lotta contro il cambiamento climatico stavolta, e non i ragazzini e pochi adulti coscienti, perché quello era prima della crisi per il Covid. Speriamo, che vedo di... Non sono, io non, come al solito non sono fiducioso nei miei simili, però non lo so se poi la specie umana da questo uscirà come rafforzata, come dai canti sui balconi e come dalla nuova... come si dice, dal nuovo amore di vicinato che stiamo vivendo in questo periodo nelle zone non tanto colpite, se non altro. Però speriamo bene. Io su questo una parola mi fa molta impressione, sono completamente d'accordo sul fatto che si può fare un salto di coscienza, e non è tanto, secondo me, la cosa della speranza quanto il parlarne il più possibile, che è quello che stiamo cercando di fare sempre in radio, ovviamente, e ovunque tra di noi, ma anche all'esterno sempre di più. La presa di coscienza ci deve portare un po' al capire, a fare appunto il passaggio necessario poi a un'azione diversa. E io temo molto, come te purtroppo, nel senso che tutto questo buonismo che si sente, della solidarietà, del sentiamoci vicini, del siamo tutti uniti, siamo tutti accomunati dalla sofferenza e dal dolore, io penso che sarà molto difficile invece riavvicinarsi al proprio prossimo, a chi si incontra per strada, al vicino, veramente vicino. C'è un modo di stare adesso che è veramente di paura del prossimo, nel camminare, nell'incontrarsi, anzi questo fatto di vedersi sempre più, ci si vede con mezzi digitali vari, piattaforme di 10.000 tipi, stiamo diventando super, super digitali e tecnologici, e siamo molto sicuri di questa distanza. Ora il riavvicinarci invece a livello proprio fisico sarà secondo me difficilissimo, e questa cosa va tenuta in considerazione poi nel come si affronta il dopo. Perché sì, d'accordo, si vede sempre il globale, la generalizzazione degli andamenti, vediamo sempre appunto il cambiamento climatico come una cosa esterna rispetto a noi e non un modo di essere, un modo di vivere, un modo di fare. E io temo che quello che stiamo imparando adesso può essere positivo da un certo punto di vista nella condivisione di un grande sentimento collettivo, e quindi può insegnarci, può continuare a essere un insegnamento collettivo, e quindi a tenere i grandi temi collettivi più facilmente in considerazione. Temo molto però per la... per i rapporti interpersonali, e quindi poi per la capacità di ricongiungerci veramente, e non voglio lasciare questo alla speranza, ma proprio al discutiamone, parliamone, tiriamolo fuori e lottiamoci su questo, perché è una cosa difficilissima, secondo me avrà dei grandissimi strascichi. E certo che ci siamo allontanati da Scienza e Potere, però è inevitabile in questi, no? In questo contesto. Siamo partiti da questo pezzetto, dalla barzelletta di Jacopo e dai metodi induttivi e deduttivi, e ci siamo ritrovati a parlare delle possibilità di evoluzione anche culturale o involuzione, insomma, o evoluzione negativa. Eh sì, hai ragione, ho un po' divagato. Va bene, facciamo una breve, brevissima pausa musicale perché ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione e quindi musica e poi ritorniamo in voce per l'ultimissima parte. Ecco, ci siamo tornati come al solito, ci siamo fatti prendere la mano, abbiamo chiacchierato tanto dall'inizio e quindi adesso ci abbiamo verso la conclusione. Ci premeva in questo contesto nostro di libera scienza e libero Stato, cari compagni e cari compagni, ci premeva un attimo fare un mini, mini, mini focus sull'attenzione che dobbiamo mettere alle cosiddette bufale o fake news che in questo periodo girano tantissimo da tutte le parti e vengono riprese a tutti i livelli. Due esempi su tutti. Sulla base dei quali vediamo come si può coltivare il dubbio. Il primo è il famoso, ormai famigerato, servizio di qualche anno fa di TG Leonardo che dimostrava come, avrebbe dimostrato, secondo la bufala, come il virus, questo virus sarebbe potuto essere stato progettato in laboratorio dai cinesi. Ovviamente ci sono state poi tutte le smentite, ma la notizia è stata addirittura ripresa dal nostro simpatico Salvini e da altri, comunque è stata rilanciata da tanti. In realtà la verità è che era uscito pochi giorni prima ed era stato pure data evidenza di questo, un articolo su Nature che dimostrava, un articolo scientifico, quindi con delle caratteristiche tali per cui quello che dice è verificato dall'intera comunità scientifica, che dimostrava che questa ipotesi era inesistente, completamente inesistente. L'altro esempio, sempre che ci deve tenere in allerta, è la storia del farmaco del miracolo che proveniva dal Giappone, in cui uno di Roma mi pare di Roma, si è spacciato per farmacista, già lavoratore farmacista in Giappone, e ha detto che lì avevano tutto risolto grazie a questo farmaco. La verità è che questo farmaco, che pure è stato sotto un sempre nell'ambito della comunità scientifica, è stato somministrato nell'ambito di alcune sperimentazioni, non è assolutamente, non c'entra niente, insomma, e comunque non era quello lì il tipo di comunicazione, ma questa sua comunicazione data sui social, spacciandosi per un altro, ha detto quindi una comunicazione evidentemente falsa, ha generato una reazione non solo all'interno di Facebook, ma anche all'interno della comunità di decisori, quella che dicevamo all'inizio, cioè della regione Veneto, all'interno dell'AIFA e all'interno della comunità scientifica e anche nei vari siti scientifici, tale che adesso questo farmaco è stata lanciata alla sperimentazione, una specie di stamina 2. E la conseguenza, a proposito di effetti della parascienza in questo caso, e anche però del rilancio che ha fatto la scienza e certi poteri, è stato che le azioni in borsa della ditta produttrice di questo farmaco del miracolo, si chiama Avigan, sono schizzate a livelli assurdi, sono state alzate. Quindi bisogna stare attenti. Come si fa, comandante, a fidarsi? Di chi ci dobbiamo fidare di in questo mare di informazioni, alcune delle quali, anzi forse la maggior parte delle quali, non sono affidabili? Come possiamo coltivare il dubbio? A che ramo ci possiamo aggrappare, secondo lei, comandante? In questo caso solo alla scienza. Ora, scienza, concetto abbastanza così lato, ma a cosa mi riferisco? Alla comunità internazionale degli scienziati. Ora, ma che cos'è questa comunità internazionale di scienziati? A cosa poi alla fine, a conti fatti, si fa riferimento? Si fa riferimento alle pubblicazioni che uno trova sulle riviste accreditate, come Nature. Ho fatto l'esempio di Nature perché è una delle più famose, delle più ha un, si dice così, un impact factor molto elevato. Vuol dire che il numero di chi ci pubblica e poi a loro volta chi viene pubblicato su Nature viene citato da altre riviste, quindi è il numero di pubblicazioni e di citazioni, e quindi autorevoli. Ora, ovviamente non è che la scienza dà delle soluzioni ipse dixit, cioè per sempre valide, sono sempre livelli di conoscenza sempre più approfonditi, ma se vogliamo sono le uniche a cui noi possiamo far riferimento. Questa è la conoscenza che si sviluppa attraverso queste riviste scientifiche internazionali. Perché sono così importanti? Perché hanno una peer review, si dice, un referaggio, detto la traduzione un po' dall'inglese all'italiano. Un referaggio cosa vuol dire? Che nel momento in cui io sono uno specialista e faccio delle prove di laboratorio, ottengo dei risultati oppure devo pubblicare dei dati, io le mando alla rivista di settore, a quella a cui io ritengo che sia più attinente. Ora, a questo punto il mio articolo non è che viene preso e pubblicato, ma viene sottoposto a una serie di revisori scelti dalla rivista, a cui chi l'autore che pubblica il lavoro non ha, in teoria, come accade spesso, non ha assolutamente, non deve avere nessunissima conoscenza di chi compie questa revisione, è la rivista che si arroga il compito di darlo ovviamente a degli stessi specialisti della materia in giro per il mondo, a cui gli viene sottoposto questo articolo e devono dare il loro parere e le loro considerazioni. A quel punto avviene sempre uno scambio anonimo, perché poi l'autore riceve degli appunti, possono essere delle critiche, possono essere semplicemente degli appunti, possono essere delle impressioni, delle sottolineature, oppure anche addirittura delle sentenze negative, in cui dice no, non può essere pubblicato questo articolo, avviene spesso anche. Queste sono molto dure, queste revisioni, e una volta che l'articolo viene risistemato, rimaneggiato a seconda delle ipotesi e delle considerazioni che vengono state fatte, a quel punto è pronto per la pubblicazione. Quello è il massimo, diciamo, che in quel momento si può ottenere. Poi viene dato in pasto a livello internazionale a chiunque, e chiunque può essere libero di trarne delle conclusioni, degli approfondimenti, o dire è una baggianata. Però anche quello, dire che una baggianata deve essere risottoposto a un percorso di revisione, nell'articolo in cui si dice che è una baggianata. Per esempio, io posso fare un articolo in cui dico che scrivere che la legge di gravità è una stronzata, a quel punto vengo citato un milione di volte, ma vengo citato per dire che questo è matto. però non va. Benissimo, ecco. Chiarissimo. E quindi ci avviciniamo, anzi siamo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo parlato un po' di dati, di interpretazione dai vari punti di vista, abbiamo anche divagato un po' perché è inevitabile in questa situazione, e direi che possiamo concludere qui rimandando a Entropia Massima alla prossima settimana, sempre alle 8 su Onda Rossa, anche se in differita, e Libera Scienza in libero stato fra qualche settimana, circa un mese. Un saluto a tutti e tutti, e sempre in particolare a chi è privato della propria libertà personale. Buonasera a tutti e speriamo che la prossima volta ci rivediamo in radio. Ciao ciao, staremo lì, staremo lì.